Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Così cantava Nilla Pizzi nel lontano 1952. Ritornello che ci accompagna da allora. Questa volta visitiamo i cosiddetti Paesi Bassi, iconici i suoi campi di papavero e mulini a vento, molto conosciuti i suoi zoccoli di legno, souvenir di ogni visitatore. Curiosando online alla ricerca di qualche idea, abbiamo scoperto che in Olanda lo street food è molto in voga. Dal panino con la ringa cruda marinata a quello con salsiccia di manzo, sempre cruda. Ce n'è per tutti i gusti. Ma noi raffinati palati di cibo da strada ne abbiamo scelto uno decisamente più alla nostra portata, il Brugge Croquet. Pepite di carne a forma di tronco, ricoperte di pangrattato e fritte, inserite all'interno di un panino morbido. Il condimento è uno e semplice, la senape. Ciccio. Te l'avevamo detto che ci stava un panino con la crocchetta dentro. Abbi fede! Passando alla parte alcolica invece, qui troviamo lo Genever, distillato di frumento o d'orzo al gusto di ginepro, considerato il padre del gin. Come diremmo a Roma, a sto giro c'è annata liscia. Quel mazzolin di fiori? Sempre 15 euro. Il proverbio locale dice «Welcome in Nederland, allinga gesneller, samen kom geverder». Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Grazie per l'ascolto.